È sera, tarda, fredda e piovosa. Il centro è deserto. Sono senza ombrello e aspetto l'autobus. Alla fermata c'è perlomeno il conforto della luce di una vetrina. Pavillon Christophe, nome da noblesse che oblige. Di autobus non se ne vede e almeno vediamo un po' cosa offre questo pavillon, visto che più gli sto vicino, meno acqua mi prendo. È quello, sì, è quello che si potrebbe chiamare un casalinghi. Posate, bicchieri, piatti, roba da tavola. Da tavola per chi può, perché a lato c'è perfino il carrello e il secchio per lo champagne. Diciamo che è un casalinghi per uno che in un casalinghi non è mai entrato. Della merce offerta in questa vetrina, l'unica luce nell'oscurità di un centro cittadino immerso nell'inverno freddo e umido della coscienza collettiva, di tutto il ben di Dio in offerta, rimango affascinato alla fin fine da un unico oggetto che assumo per così dire a rappresentare tutti gli altri. Lo scelgo un po' perché non sapevo che in quanto tale esistesse, un po' per fatto personale, in quanto ne detesto profondamente l'elemento per il quale in un rapporto di teologica subordinazione è stato forgiato. Una burriera. Già io non sapevo che una burriera esistesse, già io non avevo mai riflettuto a sufficienza sulle ancestrali ragioni del suffisso era, lo stesso della barriera, della zuppiera, della voliera, lo stesso anche della miniera, ma... Già io infine stavo dirigendomi scioccamente al tramonto della mia esistenza, senza aver mai visto in generale i prezzi del pavillon Christophe e in particolare il prezzo di una burriera. Ma andiamo con ordine. Primo, volendo, a qualsiasi cosa si può assegnare un contenitore e soprattutto alle cose che non si buttano immediatamente dopo l'uso o che in quest'uso non si consumano del tutto. Volendo, ove ne nascessero le imprescindibili esigenze, anche agli escrementi si potrebbe assegnare l'apposita escrementiera, tant'è vero che c'è già, anche se al momento più dedicata a chi ricorre alle unità sanitarie che a chi ricorre al pavillon Christophe. Gli artefatti nascono e nascono come i funghi, qualora la loro valenza sociale sia destinata a crescere. Dal punto di vista del burro, è ovvio che io sia un nemico del popolo, del tutto alieno dalle regole della società butirrica, e pertanto è perfettamente legittimo che la burriera mi appaia solo all'alba del 48° anno. Secondo, i suffissi in era non designano un contenitore in quanto tale, perché se no non si spiegherebbe né la barriera né la carriera, tanto per citarne due. Sì, la voliera contiene volatili, la fruttiera contiene la frutta, ma la barriera non contiene barre come la carriera non contiene carri. A rifletterci, credo che il suffisso designi invece l'alta concentrazione di un elemento in un posto. Fai una barriera con uomini o tronchi o paracarri quando ne metti parecchi in modo tale da percepirli assieme. E la fai anche con un muro solo, con un elemento unico, allo stesso modo come fai una burriera per un elemento come il burro che consideri unitariamente e non certo per gli elementi che lo compongono. Elementi che se li volessi cercare, li troverei anche nel muro. Pacifico esito di una metaforizzazione è il caso della carriera. Strada per carri, ove quindi si concentrava una pluralità di elementi dello stesso tipo, ha finito con il designare la strada della vita lavorativa, ove i cambiamenti più significativi, le promozioni, i ruoli ricoperti, hanno preso il posto dei carri. E l'ipotesi regge anche il confronto con la miniera, perché mina, oltre al pericoloso ordigno che peraltro nelle miniere trova largo impiego, è il cunicolo sotterraneo dalla cui pluralità in un posto determinato è appunto costituita una miniera. Terzo, il suo prezzo. Non mi era mai capitato di riflettere sul fatto che fare un prezzo deve essere ormai un mestiere. E fra i più ricercati, credo che occorra la laurea a Oxford in psicologia transazionale, la specializzazione in antropologia dei sistemi mercantili, 5 lingue di cui 2 morte e nozioni in teoria dei modelli mentali e semantica degli insiemi numerici. Fare un prezzo è, insomma, il risultato di un complesso lavoro di ricerca, forse addirittura svolto in equipe. Detta burriera, infatti, era in vendita alla modica e inquietante cifra di 758.500 lire. E mentre la 61 non arrivava, e oltre a piovere, tirava anche vento, il mio pensiero è corso alle immagini di frenetiche e penose trattative. Il cliente è quello stesso che spende 758.000 lire per una burriera alle prese prima con la commessa e poi con il signor Christophe Le Pavillon in persona per riuscire a farsi scontare quelle 500 lire che per la loro fastidiosa presenza rendevano la burriera un po' cara per le sue momentanee disponibilità. Un dramma. Se uno pensa che con sole 1.500 lire si sarebbe arrivati a quota 760.000, gli viene proprio da pensare che finalmente siamo arrivati al punto in cui lo scandalo non stia per una volta in una maggiorazione, ma bensì in una diminuzione di prezzo. E quelle 1.500 lire in meno, ecco, quelle sono davvero un insulto al genere umano. Occorre della genialità malefica e un programma articolato e inderogabile dei propri rapporti sociali per configurare un prezzo così. A ciascuno il suo sconto è il principio già incluso nel prezzo. Sconto che nel caso di questa burriera, chi lo sa, può riguardare le 8.500 lire che esorbitano dalle 750.000 o più presumibilmente le 58.500 lire che esorbitano dalle 700.000 per i nostri clienti più affezionati, che è la formula più asettica e nobiliare del proprio perché è lei, guardi dottore, è uno sconto a ben vedere che in taluni casi può superare il costo di tutto il burro che quel cliente, quello stesso che mai potrà comprarsi la burriera, mangerà in tutta la sua vita. Concetto che dalle parti del Pavillon Christophe esprimerebbero come un caso di ammortamento non perfettamente riuscito. E mentre sono lì, intirizzito, intristito e irritato dalla burriera, dal prezzo della burriera, dalle condizioni climatiche, dal pubblico trasporto che persiste a non trasportarmi affatto, mi accorgo che ci mancava anche quella, sto per essere non più solo. Una figura imbacuccata mi si sta avvicinando e solo quando è lì, nella luce del Pavillon Christophe, mi accorgo della sciarpa che le copre il viso fino al naso, del fatto che è probabilmente una donna e che, occhio e croce, non sembra voler infierire su di me. Si volta un attimo indietro, più che per constatare l'eventuale arrivo dell'autobus per farmi capire che lo sta aspettando, e si mette a guardare la vetrina. L'attesa si protrarrà, l'autobus arriverà, e ci saliremo entrambi senza che capiti alcunché di notevole. Anche il fatto che per un attimo in autobus a quella donna scivolerà la sciarpa dal viso, lasciandomi vedere quel viso che deve essere stato bello di una donna ormai avanti negli anni, non sarebbe poi un evento così notevole e meritevole di racconto. Se non che a quella sera, come a tutte le sere, c'è un indomani. E l'indomani io, una volta tanto che ho un paio di ore libere, l'indomani vado al cinema. E per andare in qualsiasi cinema bisogna passare dalla cassa. E alla cassa del cinema che ho scelto questo indomani, chi ci ritrovo? La signora della sera prima, quella che ha finito per condividere con me la vetrina del Pavillon Christophe. Ed è difficile vedere la coincidenza in termini di determinismo, difficile attribuire all'incontro la scelta del film, difficile instaurare alcun rapporto di causa e di effetto. Ma fatto sta che, per quanto c'era stato fra noi, mi è venuto quasi spontaneo di salutarla. Cosa che ovviamente poi non ho fatto, preferendo abbassare lo sguardo come se stessi entrando a vedere un film pornografico. In fin dei conti avevamo condiviso qualcosa, la vetrina, quei prezzi proibitivi per entrambi, l'attesa di un autobus, la strada deserta, forse un briciolo di timore, e qualcosa stavamo condividendo in quello stesso momento. Il passaggio da riflessioni sulla necessità a riflessioni sul caso, per ricordare il titolo di un famoso libro di Monod. Ma tant'è, un saluto, anche un semplice cenno di riconoscimento, avrebbe significato un'attenzione troppo invasiva, uno sguardo all'altro che, fra passanti educati alle buone maniere di questa cattiva epoca, non ci si può più permettere. No triangle ties for you and me, no hanky-panky.